Bella Flo, il 3. Questa volta è un pezzo d'amore. Buongiorno, anche oggi mi sono svegliato con te. Da quando ho preso il caffè fino adesso che sto guardando il tramonto dal finestrino dell'aeroplano. Con te non ci vado piano, neanche sembra che lavoriamo. Caro diario, ti racconto di lei, la mia metà, quella speciale, che mi sa stregare. Lei si sa spiegare, mi fa essere puro, mi disegna il futuro. Un tratto a matita scuro ti cambia la vita, giuro. Avevo 13 anni quando mi hai guardato la prima volta. Non so che dirti, una cosa del genere non si racconta, non si racconta. Come faccio? Avevo la pelle d'oca e il cuore batteva velocemente. 11 anni dopo non è cambiato niente. Ti amo da quando ti ho conosciuta, e se qualcuno si accorge di un bene del genere non lo sciupa. Io ti amo, non ho paura di dirtelo, è proprio il fatto di saperlo che mi rende libero. Hey! Vorrebbero portarti via, farmi credere che non sei fatta per me, ma io ti amo alla follia, voglio solo la tua compagnia. Vorrebbero portarti via, farti credere che non sono fatto per te, ma io ti amo alla follia, non concepisco il mondo senza di te. Ti amo perché non mi puoi tradire, no, no. Tu mi puoi capire, solo tu mi puoi guarire. Sai quante volte è bastata una delle tue voci per farmi dimenticare di tutte le croci. Mi tieni la mano in quello che chiamano vivere. Le persone si credono libere, ma non sanno che amano vivere, che da un giorno all'altro ti lasciano solo senza farti decidere se sei ancora in grado di dargli qualcosa di bello per farle sorridere. Fanculo, provaci a cambiare le parole di un vecchio Joe Cocker. Prova, prendi una canzone dei Nirvana e cambiagli le note. Non ci riesci, lo immaginavo, mi spiace rovinarti i piani. Ma è come spezzare catene solo con le mani. Quindi questo pezzo è un buon paradosso, come chi vuole la pace e poi ci spara addosso. Amo la musica e lei ama me, lo sai perché? Perché un regalo più bello di questo non c'è. Questo è per te, questo è per te, te. Vorrebbero portarti via, farmi credere che non sei fatta per me, ma io ti amo alla follia, voglio solo la tua compagnia. Vorrebbero portarti via, farti credere che non sono fatto per te, ma io ti amo alla follia, non concepisco il mondo se